Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda i temi in apertura, segnaliamo da un lato un oro ancora record, $1,530 l'oncia questa mattina a New York. Questo come conseguenza, e qui veniamo anche al secondo tema, della decisione della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ieri sera, ve l'hanno raccontato il nostro GR, di lasciare i tassi invariati. E questo spinge chiaramente gli investimenti sull'oro. Andamento analogo, non per gli stessi motivi, ma anche per quei motivi, per il petrolio. Il petrolio aperto in rialzo a $112,80 al barile, nel giorno in cui tra l'altro ExxonMobil ha riportato che nel primo trimestre ha guadagnato praticamente 10 miliardi di dollari. Sono quasi 4 miliardi in più rispetto al 2010, ai primi tre mesi del 2010, una cifra enorme, anzi più di 4 miliardi, perché erano 6 miliardi e 300 milioni nel 2010, nei primi tre mesi del 2010, 10 miliardi e 7 nel 2011, un risultato che batte le attese del mercato, ma soprattutto che fa capire quanto le compagnie petrolifere stiano guadagnando con il prezzo del petrolio. Vedo già dei messaggi sul decreto rinnovabili, l'incontro Stato-Regioni, ne parleremo. Domani doveva esserci il decreto, l'accordo tra il ministro Romani e Prestigiacomo sul decreto e sugli incentivi per le rinnovabili. Obiettivamente, essendo con ogni probabilità slittato il Consiglio dei Ministri, non si capisce se arriverà domani la decisione. Sempre però sul fronte dei mercati, segnala un euro a quota 1,48,30 nei confronti del dollaro. Anche questa è una conseguenza della Banca Centrale Americana di ieri, ossia l'euro è in netto rafforzamento e ormai intravede quota 1,50. Francoforte più 1%, quindi veniamo alle borse, Parigi più 1%, l'America più 0,30, Londra invariata. Ancora l'Italia, o meglio Milano, guadagna lo 0,90%. Sui titoli segnalo subito che è in evidenza oggi in pregilo, più 2,30%, Fiat più 2,12% come TOZ, A2A più 2,1%, Buzzunice più 2 come Enel e Telecom Italia, l'1,70% lo guadagna Ansaldo CTS, l'1,60% anche Fondiere Assai, l'1,5% Generali. Chi perde? Luxottica meno 1,60%, Finmeccanica meno 1,30%, Lottomatica meno 1%. Il numero per i vostri sms come sempre 349-238-6666. Rapidamente le notizie in breve. Non è solo Exxon avere un utile a record, appunto 4 miliardi in più in tre mesi rispetto ai tre mesi del 2010. Tra l'altro si fa un calcolo che nei primi tre mesi dell'anno Exxon ha guadagnato qualcosa come $82,000 al minuto, sono $1,360 al secondo, complimenti. Dicevo, non è solo Exxon, perché anche Shell ha visto, grazie alla corsa del petrolio, l'utile salire a 6 miliardi e 300 milioni contro i 4 miliardi e 800 milioni dello stesso periodo 2010, e quindi siamo a sostanzialmente 1,5 miliardi in più, un risultato che anche in questo caso batte le attese del mercato. E poi Gazprom, il colosso mondiale del gas, il colosso russo, che ha annunciato un utile netto nel 2010 pari a €24 miliardi, anche qui più 24%. Sempre dalla Russia però, interessante la notizia come nei giorni scorsi in alcune regioni russe si è verificata una paradossale carenza di benzina. Insomma, la Russia forse quanto volume non tutti se lo ricordano, ma è il primo paese produttore di petrolio oltre che di gas. Eppure mancava la benzina ai distributori. Legato questo fenomeno al fatto che le grandi compagnie preferivano esportare il loro petrolio piuttosto che venderlo in Russia, come chiesto dall'autorità antitrust, che aveva chiesto alle compagnie petrolifere russe di venderlo a un prezzo calmierato. Il PIL americano nei primi tre mesi dell'anno cresce dell'1,8% sotto le attese, e la Casa Bianca ammette che serve una crescita più veloce per il lavoro. Tra l'altro i sussidi di disoccupazione in America oggi sono cresciuti di nuovo a 429.000 unità, più 25.000 unità. E ancora, sempre sul fronte macroeconomico, vale la pena segnalare come la Banca Centrale Giapponese abbia tagliato anche le stime di crescita del Giappone per tutto il 2011. Qui l'effetto però ripresa lenta non c'entra nulla, purtroppo c'entra l'effetto tsunami e terremoto. Un punto percentuale praticamente, dall'1,6 allo 0,6% costerà lo tsunami e il terremoto al Giappone quanto a crescita economica, un meno 15% nella produzione industriale del mese di marzo è già stato registrato in Giappone, e un meno 57% nella produzione di auto. La spesa delle famiglie è sempre in Giappone, meno 8,5% a marzo, un crollo verticale anche in questo caso dovuto al sisma. E nel frattempo Sony ha accusato alla borsa di Tokyo una nuova perdita, meno 5% quasi, a causa, questa è un'altra vicenda ancora che è sui giornali in questi due giorni e riguarda la PlayStation, ossia a causa dei timori che vi possa essere una maxi causa collettiva, class action in americano, per l'attacco informatico capace di rubare i dati personali di 77 milioni di clienti appunto della PlayStation. Le prime stime indicano in 1,5 miliardi i possibili risarcimenti complessivi. E tra l'altro, sempre da Giappone, dell'ultima notizia, da lì la Panasonic oggi ha annunciato un piano di ristrutturazione globale, che non solo in Giappone, che porterà a tagliare 35.000 posti di lavoro a livello mondiale. Il balletto greco, che non è in Sirtaki, ma è il balletto di dichiarazioni che arrivano in questi giorni sulla Grecia. No, secondo il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker, a una ristrutturazione del debito greco, che vorrebbe dire prendere atto dell'insolvenza greca, parliamoci chiaro. E poi Juncker, così come Sarkozy, ha appoggiato Mario Draghi alla candidatura della Banca Centrale Europea. Di questo parleremo alle 18.10, perché oggi è arrivato quello che si chiama endorsement in americano, un appoggio anche, è la seconda volta devo dire, dal Financial Times, con una lettura un po' originale, perché dice la Germania che era pronta, o la Merkel che era pronta a appoggiare Draghi, potrebbe adesso essere frenata dall'intemperanza di Sarkozy, che avendo annunciato il suo appoggio nel vertice bilaterale Italia-Francia sembrerebbe far passare la Germania come al seguito della Francia. Sono, diciamo, dispute nazionalistiche tra i vari paesi, però insomma, questa è l'analisi del Financial Times, mentre Jean-Paul Fitoussi, economista che era nostro ospite due giorni fa per commentare quello che alcuni hanno definito un 3-0 per la Francia, o un 4-0 per la Francia, un 4-1 per la Francia, Fitoussi disse no, 1-1, ma era benevole. Bene, Jean-Paul Fitoussi ha affermato oggi che il caso Parmalat è solo all'inizio, altre imprese italiane andranno alla Francia. Ancora un dato e riguarda il mercato dell'auto. È vero che ci sono poche immatricolazioni in Italia, che sono calate dopo la fine degli incentivi, però in Italia ci sono 60 auto ogni 100 abitanti, è il record europeo, è un record non nuovo devo dire, ma c'è il nuovo dato, è il record europeo di automobili per abitante. Pensate che La Germania, la Spagna e la Francia hanno 50 auto ogni 100 abitanti, il Regno Unito ne ha 49. Volete sapere della vicenda del taxi a Roma che verrebbe fatto pagare un po' a tutti? Dopo che il TAR ha bocciato l'aumento del 20% per le tariffe dei taxi romani, deciso dal Consiglio Comunale di Roma, spunterebbe una nuova ipotesi. Le tariffe crescerebbero del 10%, ma arriverebbero 6 milioni dalla fiscalità generale dei romani, quindi anche da chi non usa il taxi, per finanziare sconti sui carburanti, acquisto e manutenzione auto, potenziamento del numero unico. Tassisti sono nostri amici, grandi ascoltatori, obiettivamente però insomma far pagare alla fiscalità generale quelle che sono agevolazioni solo per i taxi, a questo punto era meglio aumentare le tariffe del 20%. Vabbè, apriamo col primo tema, che è un tema che unisce due cose apparentemente lontanissime. Io vi potrei infatti chiedere che cosa c'entra e che cosa hanno in comune la Cina e la Libia, voi direste nulla, obiettivamente così appare, in realtà non è esattamente così. Perché c'è un legame tra l'economia cinese, che quest'anno dovrebbe crescere al 9,6%, e la Libia? Non solo perché, come abbiamo raccontato molte altre volte, la Cina ha fatto shopping da anni, che fa shopping in Africa, si è comprata intere concessioni africane, diritti di pesca, diritti sul suolo. Pensate che l'interscambio commerciale tra Cina e Africa è arrivato a 107 miliardi, è decuplicato dal 2010, e gli investimenti cinesi in Africa contano ormai 9 miliardi come investimenti diretti. Molto importanti anche gli investimenti, l'interscambio commerciale tra Cina e Libia, 6 miliardi e 600 milioni, più 27% sul 2009. E sembra strano, ma insomma la comunità cinese è la comunità più importante in Libia, escluse le comunità degli altri paesi nordafricani, più importante come numero anche di quella italiana. 35.000 lavoratori cinesi presenti in Libia per 75 aziende, ma c'è di più, e ce lo racconta il direttore di ricerca al Centro Militare di Studi Strategici di Roma, Marco Giacconi. Buonasera, direttore. Buonasera. Allora, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. L'abbiamo chiamata perché insomma, lei ci ha segnalato una cosa molto interessante, oltre che singolare, e obiettivamente non letta in questi giorni, che non riguarda i rapporti tradizionali tra Cina e Libia come interscambio commerciale, ma riguarda cosa? Beh, riguarda il fatto che il petrolio libico va per l'11-12%, secondo degli standard annuali, direttamente verso la Cina via mare. E questo il petrolio libico è un petrolio che, fra l'altro, prima di fuggire Moussa Koussa, il capo dei servizi segreti e ministro degli esteri di Gheddafi, ha garantito essere ancora disponibile per i clienti più fidati, come appunto Pechino, e questo è un elemento di estremo interesse. I 40.000 circa cinesi che erano presenti in Cina sono stati evacuati con un'operazione che sul piano militare è la prima grande operazione dopo la fondazione all'estero, dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese il 1 ottobre del 49. Quindi è un elemento di evidente interesse, di evidente rilievo, che continua a essere un dato forte, come lei accennava prima, un dato forte di legame strutturale tra Cina e Libia. Ecco, questo vuol dire che a quello che a voi risulta la Libia sta continuando a vendere petrolio ai cinesi? Sì. E che spiegherebbe anche l'atteggiamento cinese molto cauto, se non contrario all'intervento militare della NATO in Libia. Certo, prego. La Cina e la Russia hanno si sono astenuti sulla mozione 1973 del Consiglio di Sicurezza, per insieme agli altri paesi del cosiddetto BRIC, no? Brasile, India ed altri. Russia, BRICS, addirittura c'è chi ci mette in Sudafrica adesso anche, esatto. BRICS. Mm-hmm. BRICS, esatto. Ecco, il fatto è che la Cina, come per altri versi la Federazione Russa, ha due interessi primari, ora che ci sono le operazioni militari NATO in Libia e che probabilmente dureranno per un tempo non particolarmente breve. La Cina ha interesse prima di tutto, come peraltro la Russia, a fare il power broker, il mediatore finale della tensione che Pechino ritiene essere di non facile soluzione tra ribelli e governo gheddafiano. E vuole altro elemento fondamentale, anche perché la Cina ha sono 2500 chilometri quadri di area di estrazione petrolifera, ancora non operativa, ma solo in parte operativa in Libia, ha interesse a avere il paese unito. Sono i due obiettivi strategici, che sono anche economici, che la Cina in termini geopolitici pensa prima alla sua economia e pensa soprattutto alla stabilità e alla affidabilità dei suoi rifornimenti, certo, energetici. Ecco, alla luce di questo, lei ritiene che l'atteggiamento cinese resterà molto molto freddo nei confronti dell'azione della NATO nei confronti della Libia, perché vuol dire, sappiamo che quando di mezzo ci sono interessi che si chiamano petrolio, qualunque elemento ideologico lascia il posto alla realpolitik. Ha una solidissima realpolitik. Certamente la Cina intende vedere chi vince, detto con estrema semplicità, e poi soprattutto evitare che altri abbiano il sopravvento, che altri paesi, compresi quelli europei, abbiano il sopravvento nella espansione dei diritti di estrazione cinesi. La Cina ha attualmente 11 trivellazioni, quindi operative, cioè, per quanto possono essere operative in questa fase, però siccome sono nell'area centro, sostanzialmente nell'area centro-sud, è probabile che ancora una quantità non trascurabile di petrolio sia disponibile per il mercato, ancora per il mercato cinese. Staremo a vedere. È un problema che riguarda, per esempio, da questo punto di vista proprio strategico, Marsabrega, ecco, la presa di Marsabrega e la disponibilità da parte dell'uno o dell'altro fronte libico riguarda direttamente la Cina. Marsabrega. Molto interessante, io la ringrazio perché di tante cose abbiamo letto sulla Libia in questi mesi, figuriamoci, ma del rapporto strettissimo che lega 11% di tutto il petrolio, è tanta roba, che lega la Cina alla Libia e spiega anche il perché della posizione cinese in questi giorni, ancora non avevamo letto nulla. Grazie al direttore della ricerca del Centro Militare di Studi Strategici di Roma, Marco Giaconi. Grazie a voi. A lei e agli ascoltatori. Arrivederci. E questo, chi l'avrebbe mai detto, di ragionare dell'intreccio tra Cina e Libia con quote così alte di petrolio. Giro la domanda a chi in questo momento si sta occupando di altro, mi riferisco al nostro Gigi Donelli che si trova in tutt'altro luogo. Gigi, buonasera. Buonasera Sebastiano. Intanto dove ti trovi, poi se vuoi commentare anche questo legame tra Cina e Libia, molto volentieri. In realtà con te vorrei parlare dello shuttle. Ma guarda, in realtà vorrei farlo e adesso ti dico perché. Io sono in questo istante proprio di fronte al al famoso countdown della base di Kennedy Space Center qui in Florida, e per questo collegamento ho lasciato temporaneamente una conferenza stampa affollatissima, come non si vedeva alla NASA da molto tempo, che è dedicata al tema del volo commerciale. Volo commerciale, bene, appena prima di uscire l'ufficiale responsabile della NASA per questo settore ha detto: qui stiamo entrando in una fase storica senza precedenti, per accedere allo spazio presto dovremo chiedere ai russi e ai cinesi. Ora con i russi ci siamo abituati, ma non certo con i cinesi. E ora uno si potrebbe chiedere: ma perché vi occupate dello Space Shuttle e del Kennedy Space Center a Focus Economia? Perché, forse ve lo ricorderete perché ne abbiamo parlato, i tagli che Obama deve imporre alla spesa pubblica americana, deve perché il debito americano viaggia almeno al 69% del PIL, c'è chi dice che col debito federale si arrivi al 140%, il deficit è oltre il 10% del PIL, riguardano, Gigi, anche la NASA. Assolutamente sì, i grandi tagli in realtà sono già stati compiuti nell'anno durissimo 2008, quando appunto proprio alla fine del mandato Bush e poi nell'anno successivo, quindi con l'esordio di Obama, Obama ha scioccato l'America tagliando integralmente il programma Constellation. Ecco, Constellation, tanto per dare un'idea di numeri, era un programma da 90 miliardi di dollari, fatto per essere il next step, quindi il passo successivo dell'umanità in direzione della Luna e di Marte. Quando Obama ha fatto questo taglio, il mondo intero ha titolato: Obama taglia la Luna, Obama rinuncia al sogno spaziale americano. In realtà la vicenda, come spesso accade, è un po' più complessa, e a due anni di distanza siamo in grado di raccontare proprio quello che accade anche in queste ore in luoghi come il Kennedy Space Center, cioè l'emergenza, l'emergere dei privati, delle aziende private in questo settore. Allora, fai bene a ricordare che insomma, quando a febbraio 2010 Obama ha cancellato il programma Constellation, quello creato da George W. Bush, insomma, il programma era già costato 9 miliardi, chiuderlo costa, se ben ricordo, altri 2 miliardi e mezzo di dollari, però si risparmia rispetto ai 100 miliardi necessari per mandare un astronauta americano sulla Luna e possibilmente farlo anche tornare indietro dalla Luna. E la NASA ha ottenuto però un aumento di 6 miliardi da spalmare in 5 anni, e c'è chi ha titolato appunto addio alla Luna, oppure l'ultimo volo dello Space Shuttle, l'ultimo volo della NASA. In realtà stanno arrivando i privati, ci dicevi. Assolutamente sì, devo dirti che per la prima volta negli ultimi anni siamo stati qui appunto per raccontare con Radio 24 gli sviluppi dell'industria aerospaziale 2008-2009, qui c'era un clima pessimo, nero. Bene, oggi naturalmente la preoccupazione c'è, non dimentichiamo che 7 giorni fa hanno annunciato il taglio di 2000 impiegati della United Alliance, quella che di fatto gestisce la manutenzione dello shuttle, quindi non è festa da queste parti, però ci sono dei progetti, e i 4 progetti appunto privati per cui proprio il governo americano pochi giorni fa ha stanziato i secondi 300 milioni di dollari rappresentano questo, quindi 4 aziende in concorrenza per raggiungere lo spazio, la stazione spaziale internazionale, con costi non esorbitanti come quelli appunto dello shuttle, che non dimentichiamolo, non era nato per portare astronauti in una distanza che ormai è considerata così vicina come quella della stazione, cioè soli 400 chilometri d'altezza. E allora, è vero che tra l'altro ad agosto la NASA dovrebbe licenziare 2000 persone che lavorano sempre al progetto shuttle, o queste verranno riassorbite poi dall'ingresso dei privati, o è troppo presto per dirlo? Questa è la sfida, è vero che saranno assorbite, sono esattamente appunto quello che ti citavo della United Alliance, quindi questo shuttle che dovrebbe essere lanciato di fronte a me in questo momento, domani alle 21 ore italiana, chiude un gruppo di lavoro di quasi appunto 2000 persone. Il taglio è stato confermato, la speranza è che presto, che è la speranza soprattutto dell'amministrazione americana e di Barack Obama, che domani sarà qui per rilanciare questo impegno, è di vederli riassorbiti nella nuova industria americana dello spazio. Ricordiamo a questo punto però il lancio dovrebbe arrivare comunque domani, anche se le probabilità si sono un po' ridotte per via delle condizioni meteo, se ci puoi dare un aggiornamento su questo visto che ci siamo, e anche sulla presenza italiana, perché al di là dei problemi economici della NASA, questo è uno shuttle che vede una presenza importante italiana. Assolutamente sì, le previsioni meteo, che sono un po' l'elemento centrale di tutti i lanci, attualmente parlano del 70%. In realtà non vogliono dire un granché, mi spiego. Le situazioni, le ragioni per cui un lancio può essere sospeso sono veramente migliaia, però diciamo che le condizioni positive. L'Italia assolutamente centrale, non dimentichiamo che Vittori, quindi Roberto Vittori, colonnello dell'aeronautica, sarà l'ultimo europeo sullo Space Shuttle, lui veste la tuta dell'Agenzia Spaziale Europea. A bordo, ancora una volta, molta tecnologia, molti contenuti italiani, non mi riferisco solamente agli astronauti, ma proprio alle imprese italiane che concorrono alla realizzazione di AMS-2, cioè un enorme scacciatore di antimateria di circa 6 tonnellate che verrà portato appunto sulla Stazione Spaziale Internazionale. E poi l'incontro con il collega dell'ESA Paolo Nespoli, no? Per cui ci saranno per la prima volta due italiani sulla Stazione Spaziale. Sì, è tutto un periodo dei record. Paolo Nespoli è dalla fine dello scorso anno in orbita, appunto come primo italiano a far parte di una missione di lunga durata. Effettivamente Vittori, che pensate torna per la terza volta sulla Stazione Spaziale Internazionale, la prima con lo shuttle, perché in passato era con i russi e con la Soyuz, ci sarà anche questo incontro. Naturalmente al futuro dell'esplorazione dell'attività americana si lega molto anche quello che è il futuro e gli interessi dell'Italia e dell'industria italiana. Basterà ricordare che quasi la metà delle zone pressurizzate della Stazione Spaziale Internazionale sono state costruite completamente o in parte a Torino, negli stabilimenti di Thales Alenia Space. Grazie, in bocca al lupo ai nostri astronauti e soprattutto al decollo dello shuttle. Grazie Gigi Donelli, che era in collegamento con noi, è in collegamento con noi dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida. A voi, a domani. Eh sì, entrano i privati nello spazio. Vedo che qualcuno scrive già al 349-238-6666. Io saprei chi mandare sulla Luna, sullo spazio, lo so, ognuno ha i suoi obiettivi. Così elettivi, però con la navetta Dragon della società californiana SpaceX con quell'atto si è sancito l'ingresso delle imprese private nello spazio. Tra l'altro il contratto siglato con la NASA, quello a cui faceva riferimento prima Gigi Donelli, con la SpaceX, vale 1,6 miliardi in cambio di almeno 12 voli verso la nave spaziale. Adesso meteo, pubblicità, poi torniamo alla borsa e abbiamo anche alcune dichiarazioni di chi oggi ha presentato le trimestrali. Mi riferisco a Fiat e quindi Exor e anche a Benetton. 349-238-6666 per i vostri sms. Mentre c'era la pubblicità in onda è uscito anche il dato sulla trimestrale di Finmeccanica, che spiega molto del calo di oggi di Finmeccanica, meno 2,13%. I primi tre mesi dell'anno infatti hanno visto un calo dell'utile del 92%, però da 91 milioni nei primi tre mesi del 2010 a 7 milioni di euro. In calo del 5% i ricavi, in crescita gli ordini a 3,8 miliardi. Parliamo allora di borsa. Borsa più 0,60% nel finale Milano, più 0,90 Parigi, Francoforte più 0,90, l'America più 0,22. Sul Dow Jones Londra la più debole, più 0,14%, l'euro è sempre a quota 1,48 nel giorno in cui l'oro ha toccato un nuovo record storico, lo ripetiamo, come conseguenza del non rialzo dei tassi americani, 1530 dollari l'oncia. Questo per quello che riguarda la giornata. Guido Maurino, Radio Colli sulle 24 ore, come sempre ci racconta invece quella di borsa. Buonasera. Buonasera. Finmeccanica, mi sembra di poter dire meno 2,13%, peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, la trimestrale? È assolutamente la trimestrale, infatti il titolo è proprio, come dire, crollato, se così possiamo dire, appena sono usciti i risultati. Non era stato brillante nel corso della giornata, ma diciamo che era abbastanza nel raggruppamento, nel centro del gruppo, e invece è scivolato proprio appena sono usciti i conti. Ancora, l'altro titolo negativo oggi è Luxottic, e anche qui ci sono dichiarazioni nel corso dell'assemblea del numero uno Guerra, no? Sì, ci sono queste dichiarazioni di Guerra che ha detto che sì, i conti trimestrali che oltretutto dovrebbero essere diffusi adesso a borsa chiusa sono per il primo trimestre sono stati buoni, però nei prossimi due trimestri con l'effetto cambio potrebbero esserci delle ripercussioni negative, proprio perché i prossimi due trimestri si andranno a confrontare con i trimestri 2010 in cui il dollaro si era rafforzato rispetto all'euro, per cui questo fattore potrebbe andare un po' a incidere sui risultati. Ancora tra i titoli, l'automatica qualche presa di beneficio, ma insomma era salita molto in queste sedute. Andiamo sul fronte di chi ha guadagnato, in pregilo più 2,40%, oggi è una giornata in cui le dichiarazioni, le notizie diciamo sui conti finalmente pesano, in pregilo. Sì, oggi c'è stata l'assemblea della società e l'amministratore delegato del gruppo, Rubegni, ha tenuto a rassicurare gli azionisti sulla situazione in Libia, ha spiegato che il paese non rappresenta un problema nonostante in pregiro abbia 1,1 miliardi di euro di ordini nel paese, proprio perché ci sono comunque acconti già versati per il 15% che coprono sostanzialmente le spese, coprono ampiamente le spese sostenute per preparare i progetti, per cui sostanzialmente ha detto sì, ci saranno dei mancati ricavi, ma non c'è un problema, non c'è un tema per il gruppo legato alla Libia. Ancora A2A mi sembra che continui ad avvantaggiarsi del riassetto di Edison, le varie voci, lo spezzatino su Edison. Sì, continua ad avvantaggiarsi proprio per queste voci, oggi era la sesta seduta consecutiva di rialzo, in attesa di novità sostanzialmente il mercato crede che il riassetto e l'accordo con i francesi di EDF sia vicino. Ancora tra i migliori e i peggiori, andiamo su Fiat però, Fiat più 2%, Tod's più 2,27%, Exor più 1,30%, Exor la finanziaria che controlla Fiat, oggi assemblea degli azionisti, la collega tua e nostra Livia Zancanelli di Radio Corriere sulle 24 ore ha sentito sul conti ma soprattutto sulla presenza di Exor in Fiat, ha sentito, dicevo, il presidente e amministratore delegato di Exor, che è John Elkann. Direi che Alpitour è sicuramente quello di cui oggi sul quale stiamo lavorando. Come sapete c'è un processo in atto, ci sono varie offerte interessanti, c'è molto interesse per l'Alpitour anche perché hanno oggettivamente fatto degli ottimi risultati e questo è ancora confermato dai primi mesi di quest'anno. E vedremo anche se ci saranno altre alternative, anche perché, come abbiamo espresso oggi, la nostra volontà è quella di avere nel tempo meno attività e che queste attività abbiano dei pesi specifici maggiori. Sicuramente rimaniamo primo azionista. Quella cosa importante è legata al fatto di aiutare e essere strumento a crescita delle società in cui Exor oggi è investita e non impedimento. E quindi qualche attività da vendere ci può essere, il riferimento al Alpitour è stato citato due volte, mentre sulla diluizione eventuale da valutarsi di Exor nel gruppo Fiat Chrysler non cambierà nulla, dice il Khan, perché Exor resterà sicuramente il primo azionista del nuovo gruppo Fiat Chrysler. Il titolo, sia Exor che Fiat. Allora, sì, Exor ha guadagnato l'1,3%, si è messa più in luce Fiat, che ha chiuso in rialzo del 2,05%, qui a guidare gli acquisti sono state le notizie provenienti dal fronte Chrysler, che oggi, in qualche modo confermando le indiscrezioni che erano circolate negli ultimi giorni, ha annunciato che nel corso del secondo trimestre restituirà i prestiti concessi dai governi americano e dai governo canadese per salvare il gruppo negli anni scorsi. A questo punto Chrysler ha spiegato che si affiderà al mercato perché ne ha la possibilità, per accedere ai nuovi finanziamenti e approfitterà anche degli 1,3 miliardi di euro che il Lingotto verserà per salire dal 30 al 46% del gruppo di Detroit. Allora, il traffico, poi altri titoli, anche Parmalat, vedo che molti ci chiedono come mai il titolo non sia ancora al livello dell'offerta pubblica dei francesi, viaggia a 2,54 euro con un'offerta pubblica a 2,60 euro, ed è sicuramente elemento, anzi oggi ha perso anche qualcosa, lo 0,40% a 2,55 euro. Ne parliamo dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, oggi giornata molto ricca di bilanci trimestrali, è appena uscita Luxottica, la stavamo commentando, in realtà non sembra Guido aver risentito del effetto dollaro, perché i primi tre mesi del 2011, nonostante le preoccupazioni di guerra, che però erano più rivolte al futuro forse, sì, al secondo, al esatto, al secondo trimestre, Luxottica chiude con un utile netto di 114,7 milioni di euro più 21% e un fatturato in crescita di 1,5 miliardi più 12%, e ancora il margine operativo lordo cresce del 16%. Dicevamo di altri trimestrali prima di arrivare a Parmalat, oggi è stata la volta anche del gruppo Benetton, che però ha approvato in assemblea anche il bilancio, l'utile a 102 milioni di euro nel 2010, meno 16%, il dividendo da 0,23 a 0,25 euro per azione, pagamento decorre dal 26 maggio del 2011, e sempre la collega di Radio Colle sulle 24 ore, ma questa volta Giuliana Licini, ha registrato questa dichiarazione di Luciano Benetton, che ha risposto anche alle domande degli azionisti in assemblea. Abbiamo convenuto che siamo in ottima forma, in un mercato tendenzialmente non crescente, però diciamo, i prodotti, i negozi eccetera offrono delle prospettive per cui siamo contenti, siamo felici. In generale non vedo ancora la fine della crisi. Diciamo che per noi il 2012 sarà un anno molto migliore. Il costo delle materie prime che ci fa, ormai abbiamo ammortizzato, ci rendiamo conto che rispetto a due anni fa la materia prima, una materia prima come il cotone, che è determinante in questa stagione, è cresciuta del 150%, e noi non siamo in grado di riversare questa crescita di costo al mercato, ai consumatori, per cui l'azienda in termini di utili ne soffre un po', però non ci preoccupa. Così il gruppo Benetton. Per quello che riguarda i titoli, volete sapere i migliori e i peggiori? Il migliore banca profilo più 11%, e poi Exor sulle privilegio più 7,30%. Tra i peggiori, Cell Therapeutics meno 7,30%, Full Six meno 7,20%, Roma Calcio meno 3,87%. Guido Maurino, Parmalat, dopo l'annuncio a sorpresa che è piombato tra capo e collo di Berlusconi più che di Sarkozy nel vertice italo-francese, lo abbiamo raccontato tutto il giorno. Il titolo però, questa è la vera domanda, non raggiunge ancora i livelli dell'offerta. Tra l'altro non ho dato, mi fate notare, l'andamento di Benetton Group, oggi è fatto più 0,27%. Comunque, Parmalat. Sì, per quello che riguarda Parmalat sembra che questa soglia dei 2,6 euro ormai rappresenti la soglia limite che può raggiungere il titolo, per cui continua a muoversi a 2,54, attorno comunque a 2,5, perché ormai viene dato per scontato che non ci sarà una controfferta, e per cui quello è il valore che oggi il mercato assegna in attesa dell'offerta di Lactalis, che dovrebbe essere, almeno stando a quello che possiamo, su cui possiamo avere visibilità oggi, l'unica offerta su Parmalat. Volete sapere anche di altri peggiori? Guardate che non c'è moltissimo oggi, perché sì, SAP sono tutti molto sottili, meno 6%, Safilo meno 2,70%, Meridiana meno 2,70%, Deutsche Bank meno 4, più 4,5% invece, e Fiat anche sul privilegio guadagna un 6%. I bancari rapidamente oggi meno al centro dell'attenzione, come andamenti di borsa ci mancherebbe. Il Banco Popolare perde lo 0,70, Monte dei Paschi lo 0,40, gli altri sono sostanzialmente invariati, con UbiBank che guadagna lo 0,40 come la Popolare di Milano. Vale la pena ricordare che bene si è mosso oggi anche Ansaldo CTS più 1,60%, Telecom Italia più 1,5%, Ansaldo in netta controtendenza rispetto alla controllante Finmeccanica, ma i conti messi meglio. A2A più 1,50, Enel più 1,40, Exor più 1,30, Generali più 1,20, Tenaris più 1%, come Fiat Industrial, cioè camion e trattori, e Fondiaria SAI. Grazie a Guido Maurino. Adesso torniamo su un tema che spesso trattiamo, cioè il low cost, il vivere low cost. Oggi c'è stata l'assemblea dell'Associazione delle Imprese Low Cost di Qualità. Da cui è emerso un dato che obiettivamente ci attendevamo, complice la crisi, complice quella ondata di neosobrietà di cui il compianto e rimpianto Gianpaolo Fabris ci raccontò proprio nel 2008, fine 2008, inizio 2009, come effetto della crisi, una neosobrietà che non vuol dire neopovertà. Insomma, cala l'importanza della GRIF, del marchio, e aumenta l'attenzione al rapporto prezzo-valore. Questi dati sono diffusi dal terzo rapporto annuale Asso Low Cost, che praticamente raggruppa le principali imprese low cost nei settori più disparati. Cioè si va da Camicissima a Bravo Fly, la Dacia, il CTS come agenzia di viaggio, l'IKEA, ING Direct, General Lloyd, Quixa. Il presidente Andrea Cinosi, che è in collegamento con noi, buonasera. Buonasera ai tagli ascoltatori. Quanto vale, quanto è aumentato il mercato dei cosiddetti generi low cost nel 2010? Il mercato è aumentato del 13,53% ed è passato da 67 miliardi di euro a 76 miliardi di euro, quindi un'incidenza del 5% circa sul prodotto interno lordo. Mi scusi, ma dire che cala l'importanza della GRIF lo dite pro domo vostra? No, di fatto abbiamo realizzato un'indagine di mercato per cui gli italiani dicono di anzitutto porre attenzione al rapporto tra prezzo e valore, e questo è inevitabile dato il momento congiunturale. Ma anche quando gli italiani ricercano la GRIF, comunque cercano di individuare il valore reale della GRIF, nel senso non sono più disposti a comprarla in quanto tale, ma in quanto reale espressione di un maggior valore. Quindi c'è una maggior selettività negli acquisti e maggior capacità critica da parte degli italiani. Ma è vero che al di là della grande maggioranza di chi si rivolge al low cost per spendere meno, banalmente c'è anche chi lo fa per potersi togliere qualche sfizio che però non si potrebbe permettere, cioè che è quasi una spesa superflua anche se low cost? Sì, assolutamente sì, questo in alcuni casi lo rileviamo ad esempio con i viaggi aerei, ma anche nel settore abbigliamento, visto che oggi il capo low cost può essere abbinato anche al capo di marca, per cui dato il prezzo molto basso diventa un acquisto assolutamente non impegnativo e quindi è affrontabile con maggior serenità. Mi scusi, come fate a scegliere i vostri soci? Cioè uno come Benetton, lei lo metterebbe tra i suoi soci low cost o metterebbe Zara in H&M? E se sì, perché? Allora, anzitutto, come Asso Low Cost, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo stabilito dei criteri classificatori proprio per verificare chi è ammissibile come operatore low cost di qualità. Di fatto andiamo ad analizzare il prezzo che deve essere per i beni prodotti o i servizi prodotti inferiore alla media di mercato costantemente di una determinata percentuale. E in più andiamo ad analizzare quali sono le aree di costo che l'azienda va ad ottimizzare. Per riconoscere un low cost di qualità occorre rilevare ottimizzazioni, diciamo, nella catena della fornitura piuttosto che in ambito tecnologico, nell'ambito della logistica, economie di scala. Quindi sostanzialmente la risposta è per quanto riguarda l'analisi di Benetton, occorrerebbe realizzare l'analisi, certamente ha rappresentato in Italia uno dei primi esempi sì. di creazione di valore a prezzi ridotti. Ma Zara lo mette, è già dentro? Zara non è dentro, ma diciamo il gruppo Inditex in realtà ha una policy particolare per cui viene decisa direttamente dalla Spagna e deve valere per tutti i paesi dove Zara stessa opera. Sicuramente è riconoscibile in Zara un modello low cost di qualità che adotta delle ottimizzazioni veramente uniche. Comunque vale 77 miliardi il mercato dei prodotti low cost, con un più 13,5% l'anno scorso. È un dato nettamente diverso rispetto a quello medio sui consumi, che sono calati a livello reale del 2%. Grazie Andrea Cinogi, presidente di Assolocost. Il GR poi dal low cost a Mario Draghi, il volo è un po' pindarico, ma insomma l'ennesima dichiarazione, anzi due, oggi Financial Times e anche il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker, con la Merkel irritata perché si sente tirata per la giacca e vorrebbe invece essere lei a dare la parola prima e definitiva. Ci sentiamo dopo il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, dopo aver affrontato i rapporti, ripeto, interessanti perché non li abbiamo letti da nessuna parte, tra Cina e Libia, l'11% del petrolio cinese è libico, e aver raccontato che cosa significhino i tagli alla NASA, ve l'ho raccontato in diretta con Cape Canaveral, dove domani dovrebbe decollare lo shuttle con anche un astronauta italiano a bordo, ma soprattutto dove ormai in quella che una volta si chiamava corsa allo spazio, ormai la corsa è una corsa zoppata, vede l'ingresso dei privati, perché la NASA non ha più soldi. Presidente Obama ha tagliato 100 miliardi di finanziamenti del piano Constellation. Poi siamo passati ai mercati finanziari, lo dico perché si fosse appena messo in collegamento, con un rialzo dello 0,6% dell'indice a Milano, bene in pregilo, più 2,40, male Finmeccanica dopo una trimestrale che ha visto l'utile calare del 90% a soli 7 milioni di euro, meno 2,13%. Finmeccanica, Luxottica meno 1,50, nonostante la buona trimestrale, ma per i timori che un euro sempre più forte sul dollaro possa penalizzare i conti dei prossimi trimestri. E in effetti l'euro è a quota 1,48 sul dollaro. Adesso ci occupiamo delle scommesse. Scommesse in generale, scommesse sul Milan. Scommesse sul Milan, secondo la SNAI ormai lo scudetto è del Milan. Mi dispiace per gli interisti e per tutti quelli che non tifano il Milan, ormai la SNAI ha deciso di anticipare i tempi per corrispondere agli scommettitori l'importo della vincita relativa alla vittoria del campionato di Serie A. A 4 giornate dalla fine del campionato e con 8 punti di vantaggio sull'Inter, 9 sul Napoli, insomma la SNAI è disposta a pagare tutti quelli che avevano scommesso sulla vittoria del Milan. Questa è la scommessa sul Milan. In realtà noi non ci occupiamo di questo, ci occupiamo di un'altra scommessa, e anche qui ci sono i bookmakers. In questo caso non è chi vincerà il campionato, ma chi siederà nella sedia principale, sul trono, dicono alcuni, della Banca Centrale Europea. Attualmente è il francese Jean-Claude Trichet, e i bookmakers sono sicuri ormai. Il prossimo presidente della Banca Centrale Europea dovrebbe essere l'italiano Mario Draghi, attualmente governatore della Banca d'Italia. Allora, i bookmaker, soprattutto inglesi, non hanno dubbi. Praticamente l'irlandese Paddy Power, uno dei più famosi scommettitori e broker, quota Mario Draghi alla presidenza della Banca Centrale Europea a 1,14. Vuol dire che se si scommettono 100 euro se ne vincono 114. È un livello bassissimo. Pensate che gli altri candidati sono molto molto molto più in là. Il tedesco Klaus Regling è quotato a 8, cioè 100 euro puntati se ne guadagnano 800. A 9 il lussemburghese Yves Mersch, a quota 11 il finlandese Erkki Liikanen, e addirittura a 13 l'olandese Knut Wellink, ossia puntando 100 euro, scommettendo 100 euro su Wellink alla Banca Centrale Europea, se ne vincerebbero 1.300. Non c'è bisogno di dire che più alta è la vincita potenziale, più rara è la possibilità che i bookmakers danno a questa scelta. Ne parliamo perché oggi l'endorsement, l'appoggio è arrivato di nuovo dal Financial Times e anche dal numero uno dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, che ha detto Draghi la scelta migliore. Paradossalmente però il Financial Times fa notare come l'appoggio di Sarkozy al vertice bilaterale italo-francese potrebbe danneggiare la corsa di Draghi, perché avrebbe irritato la cancelliera tedesca Angela Merkel. Allora sentiamo quella frase di Sarkozy al vertice italo-francese di due giorni fa. Lo appoggiamo perché è italiano, ma lo appoggiamo perché è un uomo di qualità, ma è in più, è anche italiano. Sarà un ottimo segnale da trasmettere a tutti gli italiani che possono mettere in dubbio il ruolo e il posto che occupa l'Italia in Europa. È importante che un italiano abbia questo incarico e sono stato felice di sentire dal presidente Berlusconi che sarebbero pronti a sostenere la candidatura di un francese nell'ambito del direttorio della BCE. E ricordo che il giorno dopo da Berlino è arrivata una dichiarazione del portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, che ha detto senza il nostro ok non ci può essere decisione. Nel frattempo è arrivato sempre ieri anche l'appoggio del Belgio, del Portogallo, della Spagna e appunto oggi Juncker. Professor Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, editorialista della Stampa, buonasera. Buonasera. Buonasera anche al collega corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, Beda Romano. Buonasera. Buonasera. Beda, ci aiuterei a capire se ha ragione il Financial Times o vuole invece mestolare un po' nel torbido dicendo che la Merkel sarebbe irritata da Sarkozy perché farebbe la figura di chi si accoda alla Francia, e sappiamo che i rapporti franco-tedeschi sono molto delicati. Però prima vorrei una battuta, perché poi abbiamo il traffico del professor De Aglio. Secondo lei è fatta? I bookmakers irlandesi hanno ragione? Professor De Aglio? Ma io penso in linea di massima di sì. Manterrei una piccolissima riserva in base al detto che chi entra in conclave come Papa ne esce poi cardinale. In questo caso la gaffe di Sarkozy sicuramente danneggia il candidato, però alla luce dei fatti e degli sviluppi anche proprio delle ultime ore con altre adesioni alla candidatura, direi che proprio che dovrebbe farci. Quindi se fosse così Sarkozy avrebbe fatto 5-0 non 4-1 nel ormai molto discusso vertice bilaterale con la Francia, perché se ha avuto la Parmalat, so che non ha deciso lui, però insomma Parmalat, Edison, Schengen e anche l'appoggio italiano ai bombardamenti, se avesse anche bruciato la candidatura di Draghi sarebbe un 5-0 non un 4-1. Beda Romano, prima poi di passare all'analisi, tu scommetteresti con Paddy Power in Irlanda Draghi a 1,14, cioè il candidato più probabile, o punteresti sugli altri? No, credo che sia il candidato più probabile, assolutamente. Non potrei scriverlo naturalmente, non potrei dire che a questo punto è fatta, non lo direi in questi termini, ma ho l'impressione che più passa il tempo più diventa difficile per la Germania presentare un altro candidato, e soprattutto non se ne vedono all'orizzonte di candidati altrettanto noti e altrettanto preparati. Il resto è l'analisi dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Nell'ambito del rafforzamento di questo patto si propone ora una regola numerica che imporrà tra qualche anno ai paesi con debiti superiori al 60% del prodotto, cioè a noi, anche a noi, di ridurre lo scostamento del 5% ogni anno. Analisi della Banca d'Italia mostrano che per l'Italia la variabile fondamentale per soddisfare questa regola è l'intensità della crescita economica. Se la crescita approssima il 2% annuo, la regola sul debito risulta soddisfatta se è rispettata quella relativa al pareggio di bilancio. In altre parole, la riduzione del debito che ci si chiede non è drammatica se cresciamo intorno al 2%. Così il Presidente della Banca Centrale Europea, volevo dire il Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, lo scorso 14 aprile, il probabile Presidente della Banca Centrale Europea. Allora, Beda Romano, aiutaci a capire se il Financial Times mestola nel torbido oppure no. Dice in sostanza che l'uscita di Sarkozy ha superato sulla destra la Germania e mette in difficoltà Angela Merkel perché le toccherebbe aggregarsi alla Francia, una cosa che per i tedeschi è quasi un insulto. Beh, non lo so, io mi limiterei a notare che quando al portavoce della signora Merkel, il signor Seibert, è stato giustamente chiesto se la posizione del presidente francese era stata in un modo o nell'altro preparata anche a Berlino, lui non ha voluto né confermare né smentire, ma si è limitato a dire che i due paesi sono in continua comunicazione l'uno con l'altro. Tutto è possibile evidentemente, ma noi potremmo anche girare la frittata per certi versi e chiederci se questa uscita di Sarkozy alla fin fine non possa essere utile al cancelliere Merkel. Perché bene o male qual è la situazione, qual è la difficoltà per il cancelliere Merkel? La signora Merkel deve, per così dire, vendere la candidatura a Draghi alla pubblica opinione tedesca. Probabilmente in cuor suo la signora Merkel sa che il candidato italiano è probabilmente il migliore in questo momento in lizza, sa anche che non ha apparentemente un candidato altrettanto buono né in Germania né in altri paesi, ma deve poter presentare questo candidato senza suscitare le ire di alcuni esponenti della propria maggioranza democristiana liberale e senza soprattutto suscitare malumore nella sua pubblica opinione. Sappiamo che la signora Merkel è molto sensibile ai malumori della sua pubblica opinione, soprattutto in un anno elettorale. Quindi deve così raccogliere in giro per l'Europa tutti gli elementi che le sono utili in termini di politica interna per poter così vendere questa candidatura. Io ho l'impressione che bene o male sia la presa di posizione di Sarkozy sia le prese di posizione di altri paesi, per certi versi nordici direi, perché insomma bene o male il Lussemburgo, l'Olanda ha fatto capire che non c'è una lista di candidati e anche la Francia, sono tutte posizioni che alla fine forse la signora Merkel può usare prodomo sua. Beh, interessante questa tua analisi, che è appunto antitetica a quella del Financial Times, ma dice insomma potrebbe aver levato tra virgolette le castagne dal fuoco Sarkozy e anche per altri paesi europei, perché la Merkel potrebbe aver buon gioco nel dire sapete c'è un consenso quasi unanime in tutta Europa e la Germania non può rompere un accordo europeo su una cosa così importante come il presidente della Banca Centrale Europea, quello che decide le sorti dell'euro quanto a tassi di interesse. L'aspettavo e la domanda che aspettavo al 349-238-6666 è arrivata puntualmente. Se Draghi avesse la presidenza della Banca Centrale Europea, che vantaggi potrebbe avere l'Italia? Professor De Aglio. Ah, ecco, scordiamoci che Draghi faccia l'italiano, cioè tanto per essere chiari che abbia un occhio di riguardo, ci sia qualche raccomandazione per le banche italiane. Il vantaggio che l'Italia avrebbe deriverebbe dal fatto che Draghi conosce la situazione italiana e quindi può basarsi su giudizi e non su pregiudizi, quindi può dare una valutazione onesta alla potenzialità e ai problemi delle banche italiane e non invece una valutazione deformata appunto dai pregiudizi come qualche volta è successo a esponenti della finanza internazionale. Beh, che però non è il vantaggio che alcuni dei messaggi che leggo immaginano, ma è un elemento non da poco, cioè parlare dell'Italia e della situazione italiana, delle banche italiane, perché poi questo fa anche la Banca Centrale Europea, conoscendo quello di cui si parla e conoscendo la reale situazione, è un vantaggio non da poco. Professor De Aglio, visto che l'altro messaggio che arriva con frequenza è il seguente, glielo giro, in realtà in questo modo andrebbe in Europa uno dei possibili candidati a un governo tecnico in Italia, no? Di molto se ne discute. Allora, secondo lei, professore, Tremonti più contento o scontento? Nel senso che Draghi, tra alcuni, è un piacere a Tremonti, perché se va alla Banca Centrale Europea è un candidato in meno. Per altri, invece, oggi si legge sui giornali un Tremonti irritato con Berlusconi perché ha appoggiato la candidatura di Draghi. Ma io penso che a mente fredda Tremonti dovrebbe essere contento, perché ottiene due vantaggi. Il primo è che nella corsa alla direzione di un possibile governo tecnico scompare il suo antagonista più importante. Ma il secondo è che in un posto vitale, perché le manovre che l'Italia dovrà fare siano valutate correttamente, c'è un italiano. E quindi potrebbe avere, se lui magari mai fosse il futuro presidente di un'Italia che deve fare delle manovre un po' strettine, sa che c'è a Francoforte qualcuno che sa esattamente come vanno fatte queste manovre e non si farà prendere da giudizi faciloni che in qualche modo anti-italiani. Allora, sì, e al posto di Draghi chi va? Non lo so, Vittorio Grilli forse, no? Adesso, non lo so, adesso, i bookmaker ancora su Draghi non si sono mossi, su chi prende la posta di Draghi la Banca d'Italia non si sono mossi. Ma invece, Bella Romano, altre domande riguardano la Banca Centrale Europea. Abbiamo spesso raccontato di una Banca Centrale Europea molto allineata con la Germania, con questa missione molto tedesca che è il controllo dell'inflazione, criticata anche da alcuni, perché è stato detto in questi anni pensa più al controllo dell'inflazione che non allo sviluppo economico. Domanda: quanto pesa il presidente e in questo caso anche la nazionalità del presidente? Potrebbe cambiare, diciamo così, la pancia, ma anche la storia recente della Banca Centrale Europea? Ma non credo. Credo il presidente ha un ruolo importante perché è il presidente del consiglio direttivo ed è alla fin fine il portavoce della banca ed è la persona che viene seguita dai mercati finanziari. Credo che la banca sia cambiata molto, soprattutto negli ultimi due anni. La banca ha preso delle posizioni e ha preso delle decisioni che in Germania non sono piaciute. La prima in particolare è l'acquisto di obbligazioni pubbliche sui mercati. Quindi per certi versi la BCE non è più quella che era 10 anni fa e si è abbastanza affrancata dal paese che per così dire l'aveva battezzata nel 1998 quando è nata. Detto questo, i tedeschi e l'establishment tedesco sa che in ogni caso il nuovo presidente della banca avrà un cuore tedesco, per così dire, non potrà ignorare le sensibilità del suo azionista di maggioranza. Non lo ha fatto Trichet nonostante alcune decisioni controverse e non lo farà il suo successore, perché un po' perché la banca è in Germania e un po' perché la banca sa perfettamente che la Germania è l'azionista di maggioranza dell'Unione Monetaria e ha lasciato comunque il suo imprimatur allo statuto della BCE. Allora, visto che noi siamo anche un po' scaramantici e tifiamo italiano, facciamo gli auguri per la presidenza della Banca Centrale Europea al tedesco Klaus Regling. Ringraziamo Mario De Aglio e Bella Romano, rispettivamente docente di economia internazionale e editorialista della Stampa e corrispondente del Sole 24 da Francoforte. Auguriamo a voi in ascolto una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.